Sogno primogenito, boombox speaker, postumi di una stronza mixtape. Sono il tuo problema, man. Mi hanno detto che è un problema. Che tipo di problema? Ce l'hai con sogni, allora resta solo un tuo problema. Mi hanno detto che è un problema. Che tipo di problema? Ce l'hai con sogni, allora resta solo un tuo problema. Stronzo, mi volevi a fondo. Invece di cambiare io, ho sempre voluto cambiare il mondo. In fondo, non giro attorno alle cose, così se vado a fondo non sono io ma il mondo che esplode. Non sono hip hop, sono un caso provato di dozer, bulldozer. Tu ti senti forte se giochi col popper. Poi già da un po' che chi mi vuole fottere finisce nella notte come Luca Brasi tra i pesci che dorme. Segui mie orme, parlo di strade sporche, parlo di pompe di porche, non di Porsche a Monte Carlo. Dal Piemonte parlo e mando segnali che sto arrivando per chi sta sognando di fermarmi o chi conta di farlo. Chiamami Street Joker, gioca street poker con le tipe più fighe in regione. Non sono un pop poser, mi faccio di tot dose. Tu da come ti atteggi sul palco mi sembri il top delle top model. Mi segno su un block notes mode, mi premio talento dall'Oda 19. Vi accompagno Fossano Discover. Vieni a trovarmi coglione se vuoi le prove. Ma allerta, son la peggior scoperta su queste note. Oh stronzo, mi volevi a fondo. Invece di cambiare io, ho sempre voluto cambiare il mondo. In fondo, non giro attorno alle cose, così se vado a fondo non sono io ma il mondo che esplode. Stronzo, mi volevi a fondo. Invece di cambiare io, ho sempre voluto cambiare il mondo. In fondo, non giro attorno alle cose, così se vado a fondo non sono io ma il mondo che esplode. Amico rischi, non riesci nella mia eclissi. Sogni sbrana, gli artisti di strada qua non vi ho mai visti. E bada, muovo gli abissi, ti trovo morto se mi fissi. Finti teppisti cercano scogli in un mare di fischi. Tu percepisci un mare di cazzate, guido il veliero boombox. Sopporta le mareggiate, non siate amareggiati con me, non pareggiate. Le mie azioni in provincia superano le ragazzate. Cambiate rapper, non rappresento le strade, mi presento alle feste vestito kamikaze. Rimorchio le fate, fate i seri, pompate il disco, pompate puttane in disco. Voi parlate, parlate, io vi zittisco. Ci sto dentro, ma l'hai già visto. Ambisco al cielo e porto all'estremo ogni vizio e rischio. A meno, io preferisco lo zucchero a velo che quella sostanza che vedo. Mi pare dai ragazzini al liceo. Stronzo, mi volevi a fondo. Invece di cambiare io, ho sempre voluto cambiare il mondo. In fondo, non giro attorno alle cose, così se vado a fondo non sono io ma il mondo che esplode. Stronzo, mi volevi a fondo. Invece di cambiare io, ho sempre voluto cambiare il mondo. In fondo, non giro attorno alle cose, così se vado a fondo non sono io ma il mondo che esplode.